Good classics. Si poker das, la mia scarpa è night, la mia bitch è white, il mio chain è big, 18, la mia felpa white, viola la mia sprite, il mio Annie è caldo, grazie senza ghiaccio, ogni giorno guai, ogni giorno un danno, non imparo mai, basta che guadagno, quanto mi piacciono, collane risaltano, le ha fatte Claudio, il mio mezzo è nero, sto su un Dodge Durango, a casa ho due macchine, non posso guidarle, banconote colorate, faccio nevicare, sono le 5 del mattino, esco dal locale, non mi tolgo gli occhiali, o sparo i raggi laser. Mi parla inglese, io messo italiano, guido una tedesca, sogno americano, pace alla francese, fuma giamaicana, borse permesse, per le spendo come un arabo. Mi parla inglese, io vesto italiano, guido una tedesca, sogno americano, pace alla francese, fuma giamaicana, borse permesse, per le spendo come un arabo. Giro con una figa atomica asiatica, la chiameremo Fukushima. La prima volta in Italia si gira e mi dice Milano è bellissima. Baby, Milano è fantastica, fatta di pezzi di bambe e di plastica. La Madonnina, lo stadio Meazza, mi dice quando mi porti da Prada. Mi dice quando mi porti in vacanza, quando mi porti ad Atlanta, quando mi metterà l'anello al dito. Baby, sei matta, ormai la mia vita è cambiata, bastava premere play, stavo col culo sopra quella panda. Ora passo al Bentley, ora passo al Ray, dal G-Shock passo al Tourbillon, dal cassetto alla safe, dal fornello a gas passo allo chef con i camerieri, doccia con i led, mi chiama Vichy, mi ama, ora vesto babe, lei odia gli zuccheri ma vuole la mia candy cane. Mi parla inglese, io vesto italiano, guido una tedesca, sogno americano, pace alla francese, fuma giamaicana, borse permesse, per le spendo come un arabo. Mi parla inglese, io vesto italiano, guido una tedesca, sogno americano, pace alla francese, fuma giamaicana, borse permesse, per le spendo come un arabo.